Pubblicata sulla rivista Contemporaneamente Versi, direttore editoriale Luca Sardo Giambonino, una nuova poesia di Luca Sardo Giambonino dal titolo Solitudine. La fresca brezza degli scorsi giorni sta passando e ormai non rimane se non un caldo afoso, noioso, di togliere forze. Ma non mi lascio abbattere da questo, sono gli anni che passano senza tregua a lasciarmi solo e stanco. Tornerei indietro volentieri per cambiare il mio destino, tornerei indietro per essere come ero un tempo, per vedermi ancora giovane e forte affrontare la morte dell'anima, nell'anima e uscirne indenne.